sicuramente ci sono c'è un parallelo che si può, io credo, fare. L'attentato era dell'aprile del 1985, quello di Oklahoma City. All'epoca, diciamo, un reduce dalla prima guerra dell'Iraq, che si chiamava Timothy McVeigh, fece saltare un camion, un furgone pieno di fertilizzanti, più o meno, quindi siamo, diciamo, una sorta di bomba sporca nel terreno della bomba sporca, un po' come quella che ha colpito i palazzi, diciamo, del centro del governo a Oslo, sotto un edificio federale di Oklahoma City, un edificio federale, vale a dire che ospita diciamo le agenzie del potere di Washington nei diversi stati americani. Si disse che McVeigh era un isolato, era uno spostato uscito, diciamo, a pezzi dal suo periodo di servizio militare, aveva partecipato, diciamo, all'offensiva finale contro le truppe irachene in Kuwait, appunto, nell'ambito di Desert Storm, ed era un personaggio, diciamo, un marginale, un perdente in qualche modo del sogno americano, anche se nel corso delle indagini emersero i suoi contatti con il movimento delle milizie, che era in quel momento, diciamo, scusa, la componente più importante della nuova estrema destra, quella che aveva preso il posto, diciamo, del suprematismo bianco, dei cappucci del Ku Klux Klan, e che aveva in qualche modo dichiarato guerra a Washington, dicendo: il problema qui è il potere eccessivo del governo federale, che ci vuole imporre tante cose, le tasse, ma anche i progetti di integrazione razziale e quant'altro. Insomma, questo era un po' il contesto. Da tempo, in realtà, uno dei primi che lo aveva segnalato era Stieg Larsson, che oltre a essere, appunto, un popolare scrittore di gialli, è stato a lungo un importante analista della destra radicale, attivo nel circuito antifascista e antirazzista scandinavo. Aveva fondato a Stoccolma la rivista Expo. Proprio Larsson, all'indomani della strage di Oklahoma City dell'85, aveva scritto: una cosa del genere potrebbe accadere anche a Stoccolma, perché ci sono riuniti qui tutti gli ingredienti perché accada. Vale a dire, c'è un circuito di odio molto forte, c'è un underground neonazista piuttosto attivo, c'è una cultura del complotto, diciamo, e un tale settarismo, una tale logica, diciamo, da gruppi ristretti e chiusi, che questo si potrebbe produrre. Quindi, al di là, diciamo, delle analogie concrete su che cosa è accaduto, perché si sta ancora indagando, ma sembra che questo Breivik probabilmente abbia agito da solo o pressoché da solo, malgrado, insomma, possa apparire quasi incredibile, no? Che una persona sola realizzi una tale mole di violenza, di odio e di un attentato di questo tipo. Eppure, diciamo, c'è anche questa ipotesi. Al di là però del fatto che, diciamo, si tratti in qualche modo di self-made terrorist, no? Si potrebbe dire, insomma, sì. Cioè dei terroristi fai da te, in qualche modo, che si siano creati da soli senza un particolare circuito. Quello che probabilmente è interessante indicare è, diciamo, dal punto di vista dell'analogia con gli Stati Uniti, l'estrema radicalizzazione di un circuito, cioè del fatto che in Scandinavia negli ultimi 20 anni c'è stata, diciamo, il diffondersi di una sorta di underground razzista che ha caratterizzato soprattutto alcuni ambienti giovanili. Penso in particolare al fatto che il circuito della white power music, della musica dell'odio, della musica del circuito Bonez, Nazi Skin, come lo volete definire, ha trovato in Scandinavia il maggior mercato dopo gli Stati Uniti, e più o meno al pari di quello della Germania. Quindi, diciamo, parliamo di per un mercato di vendita per corrispondenza, prima ancora dell'esistenza di internet e poi di internet, comunque di qualcosa di consistente. Ci sono stati tutti i capitoli, diciamo, della costruzione delle organizzazioni legate agli skinhead, i vari Blood and Odor e quant'altro, e poi una ramificazione di gruppetti e di un po' tutto quello che arrivava soprattutto dagli Stati Uniti, nel senso, ci sono state delle branche locali del Ku Klux Klan, c'è stato un circuito di motociclisti, sia Hells Angels che Bandidos, che sono le maggiori firme, diciamo, del circuito, appunto, del motociclismo, cioè. E poi via via il suprematismo bianco, gli odinisti, cioè quelli che immaginano un mondo dominato, diciamo, dalle divinità appunto nordiche, eccetera eccetera, fino al capitolo appunto del fondamentalismo cristiano e della guerra all'Islam, anche questo molto fortemente legato a un immaginario molto presente nella destra americana. Questo però io credo sia solo un capitolo in realtà che ci dice qualcosa di quanto è accaduto a Oslo e che può far dire qualcosa del modello, dei paragoni col modello statunitense. E perché Larson 15 anni fa diceva Oklahoma City si può ripetere a Stoccolma, ma perché in qualche modo paradossalmente l'esistenza di gruppi neonazisti o di questo underground, c'è un popolare cantante di black metal norvegese da una decina di anni in prigione per un omicidio, per aver bruciato delle chiese, che è anche un ideologo in qualche modo di questo circuito neonazista, che ha scritto per molto tempo su internet testi deliranti e che è, come dire, quasi un personaggio di confine tra l'underground nero e la cultura pop. Ecco perché in paesi come la Norvegia, in generale la Scandinavia, ci può essere tutto questo. Probabilmente perché il grado di opposizione alla cultura che è comunque mainstream, che è una cultura di rispetto, di tolleranza, di democrazia diffusa, di multiculturalismo, cioè in qualche modo l'idea che quel modello di convivenza possa funzionare, ha costruito negli avversari di quel modello, negli avversari ideologici di quel modello, un odio radicale. Cioè in qualche modo il paradosso è che tanto più in Scandinavia fino ad anni recenti le cose sono andate bene, tanto più chi si chiamava fuori da quella cultura si sentiva in qualche modo straniero in patria, da cui l'accumularsi di questa difficoltà. Però questo è solo un elemento. Ce n'è un altro che riguarda invece lo sviluppo della xenofobia sul terreno politico, e quindi non più l'underground, ma sul terreno politico pubblico e di massa, che è l'altro elemento che ha caratterizzato, diciamo, l'ultimo decennio. Ecco. Senti, a proposito di questo ultimo dato, abbiamo parlato di fenomeni underground, fenomeni carsici, gruppi più o meno estremisti, però accanto a questo c'è anche da segnalare nel corso degli ultimi anni l'ascesa di una serie di forze politiche, queste decisamente mainstream, che in qualche modo possiamo dire che abbiano portato alla luce del sole una serie di ragionamenti che fino a poco tempo fa si facevano soltanto a livello più o meno sotterraneo, nel senso c'è un legame più o meno diretto fra i gruppi di estrema destra più o meno nascosti, più o meno sotterranei, e l'ascesa di una nuova classe politica dalla Scandinavia fino all'Olanda, ecco, insomma, non devo naturalmente insegnarti nulla da questo punto di vista, oppure si tratta di questioni divaricate? No, effettivamente quello che è accaduto e che appunto non è così, così chiaro, così evidente, almeno non è così abitualmente raccontato, è che la Scandinavia nell'ultimo decennio, in generale altri paesi apparentemente insospettabili da questo punto di vista, tu citavi non a caso l'Olanda, si sono trasformati negli ultimi 10-15 anni in qualche modo altrettanti luoghi simbolo dell'emergere di una destra xenofoba, anti-establishment, tendenzialmente liberista, e che nega in qualche modo molte delle prerogative degli stati nazionali, mettiamola così, diciamo un po' sul modello della Lega, no? Come tipo di ipotesi, senza che vi siano caratteristiche di regionalismo o paraventi etnici di sorta, che sono cresciuti in modo molto molto forte in Norvegia, dove peraltro si è ottenuto a battesimo questo tipo di formazioni politiche, perché il Partito del Progresso, che è il maggiore di questi partiti, diciamo, populisti anti-immigrati, è nato addirittura all'inizio degli anni 70, il Partito del Progresso è arrivato a lambire elettoralmente tra un quarto e un quinto dell'elettorato, con delle roccaforti precise in alcuni quartieri più deboli, diciamo socialmente più deboli, ad esempio intorno ad Oslo. In Svezia i democratici svedesi, partito simile, hanno avuto delle forti affermazioni. Recentemente in Finlandia il partito dei veri finlandesi è arrivato più o meno al secondo posto nelle elezioni. In Danimarca il partito del popolo danese è un partner della coalizione di centrodestra e appoggia dall'esterno un governo conservatore. Diciamo la cartina politica della Scandinavia ha virato nell'arco dell'ultimo decennio molto fortemente in questa direzione. Questi partiti hanno fatto della denuncia dell'immigrazione ovviamente il loro, e oltre all'elemento appunto della invasività delle politiche degli stati, quindi contro la tassazione eccetera eccetera, il loro cavallo di battaglia. Che cosa è accaduto? È accaduto che però nell'arco dell'ultimo decennio, un po' ovunque nel mondo, non soltanto in Scandinavia, la questione immigratoria è diventata una questione, diciamo, di confronto se non di scontro tra civiltà, per cui rapidamente questi immigrati sono diventati tout court degli islamici. Non è un caso che sia stato in Danimarca, sia stato un giornale di centrodestra danese che abbia pubblicato per primo le famose vignette contro Maometto, o comunque che da una parte degli islamici sono state vissute come blasfeme nei confronti di Maometto. Cioè c'è un clima da molto tempo, malgrado vi siano delle differenze forti, diciamo, dal punto di vista dei numeri e dell'integrazione delle comunità di immigrati, che ne so, tra la Svezia e la Norvegia, dove per esempio nel caso norvegese gli immigrati sono un po' presenti in tutto il territorio ma in proporzioni assolutamente molto basse, mentre in Svezia ci sono alcune località, alcuni territori, alcune, penso a Stoccolma, Göteborg in particolare, dove ci sono fortissime presenze, o a Copenaghen in Danimarca, quindi con delle diversità di numeri e di presenze. Diciamo che però nell'ultimo decennio questa presenza dei partiti anti-immigrati è diventata in realtà una sorta di leitmotiv di fondo, di denuncia della presenza musulmana, e questa cosa ha marcato profondamente queste società in cui l'idea del multiculturalismo, cioè del fatto che ciascuno sviluppasse un po' la propria cultura all'interno di uno spazio condiviso di regole comuni che garantivano però estrema libertà a ciascuno, fosse la chiave di volta per vivere insieme felici e contenti, no? Verrebbe da dire, senza esacerbare i conflitti. Eppure questo è accaduto, come abbiamo visto, anche in Olanda, dove proprio il paese che più aveva costruito l'idea di una convivenza fatta di libertà, fatta di diritti civili, fatti di autonomia del cittadino e dei soggetti, e anche lì questo modello è andato in crisi e addirittura è stato impersonato da una destra, quella prima di Pim Fortuyn, adesso di Geert Wilders, che guida non a caso un partito che si chiama Partito della Libertà, che dice questa presenza di immigrati trasformati in musulmani, trasformati quindi in negatori, diciamo, della democrazia occidentale, nella retorica di questi partiti, questa presenza limita le nostre libertà, cioè noi rischiamo che il problema non è più, come un tempo la destra poneva, di inquinamento culturale, etnico o quant'altro, no? C'è la minaccia del meticciato che da razziale era diventata culturale. Oggi noi rischiamo di tornare indietro, le nostre donne dovranno mettersi il velo, vedremo le moschee ovunque, la gente che prega che strada, non potremo più essere liberi di essere quello che vogliamo, per cui le nostre diversità, che ne so, le diversità sessuali addirittura, no? Una parte di questa destra parla esplicitamente alla comunità gay, dicendo non potrete più baciarvi per strada tra uomini, tra donne, perché ci avrete qualcuno che minaccia di lapidarvi o qualcosa del genere. Ecco, questo è il contesto che si è affermato anche in Scandinavia e che ha fatto da sottofondo a questo ultimo decennio. Quindi c'era un circuito underground neonazista dove evidentemente covavano anche sentimenti di odio radicale che possono di volta in volta, ed era accaduto anche in passato sia in Norvegia che in Svezia, armare la mano di qualcuno, ma contemporaneamente a livello di massa si è diffuso questo elemento dell'odio contro gli islamici, che peraltro si trova fortemente rappresentato negli scritti dell'attentatore di Oslo, che si sentiva un nuovo crociato, un nuovo cavaliere templare in qualche modo, insomma. Senti Guido, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, posto appunto che questa azione, questa attentato di venerdì sia stata appunto opera di un solo personaggio slegato da qualsiasi tipo di altre attività o associazioni, che cosa potrebbe succedere adesso nel immediato futuro? Potrebbe darsi che possa succedere l'opposto di quello che è accaduto con Pim Fortuyn in Olanda, ovvero sia in quel caso l'omicidio di uno dei più importanti e sulla cresta dell'onda politici della destra radicale olandese, ha avuto sicuramente un ruolo importante nella crescita dei consensi per la destra radicale in Olanda e probabilmente non solo, perché fu un caso che ebbe eco internazionale. Possiamo aspettarci qualcosa del genere al contrario per quel che accade i fatti di Oslo, oppure no, anche in considerazione del fatto che io, per quel poco che ho potuto leggere sulla rassegna stampa nazionale, ecco, si pone l'accento sul gesto disperato dell'uomo solo e insomma poca attenzione si fa invece sull'humus culturale e politico che c'è dietro. Ma in realtà credo che il rischio maggiore, come spesso accade di fronte al manifestarsi di atti di violenza, quale ne sia diciamo l'origine almeno di questo tipo di violenza stragista di massa, è che una società almeno in apparenza aperta e tollerante, sicuramente poco incline a vedere diciamo la militarizzazione del proprio territorio, detto da una città come Roma, in cui abbiamo i militari per strada con i blindati a guardia di cosiddetti obiettivi sensibili. Questo può suscitare ironia, ma appunto in un paese come la Norvegia, dove perfino la reazione a questo attentato è stata molto lenta, no? Quest'uomo ha sparato per molto tempo contro delle persone inermi e le forze dell'ordine ci hanno messo un po' a capire che cosa succedeva ed intervenire. Il rischio in qualche modo è che questa società faccia un passo indietro da questo punto di vista, cioè che in qualche modo si trasformi in una società di maggiore controllo, di maggiore repressione e militarizzazione, e che in qualche modo paradossalmente diciamo i temi evocati dall'attentatore possano in qualche modo, ripeto paradossalmente, ed è il rischio ovviamente che possa accadere, diventare realtà nel momento in cui in qualche modo la società si possa chiudere un po' di più. Tutti i politici, il governo di socialdemocratico dice non rinunceremo al nostro tipo di democrazia, appunto una democrazia aperta, tollerante, attenta ai diritti civili, ma è evidente che una parte della popolazione, probabilmente la stessa che ha dato il voto in questi anni al Partito del Progresso, cioè al partito anti-immigrati, al partito più identitario, no? Del panorama politico norvegese, chieda oggi una stretta, cioè chieda in qualche modo che si agisca per un maggiore controllo, per una maggiore militarizzazione del territorio, con una maggiore repressione, e che questo finisca anche per incidere su il modo in cui si penserà la Norvegia nei confronti dei nuovi abitanti, di coloro che chiedono asilo, degli immigrati. Perché qual è il problema? Che in qualche modo dietro un atto del genere, che suscita un'enorme paura, si possono ovviamente celare e possono prendere corpo paure e timori reali di un corpo sociale, dell'elettorato, paure che in genere vengono usate a proprio vantaggio dai partiti della destra. Quindi il rischio è, purtroppo io credo che questo tipo di elemento giochi in realtà a favore di un'affermazione ulteriore dei partiti di destra, che denunciando l'insicurezza e i timori che si possono accumulare nella società, poi finiscono per indirizzarli verso capri espiatori. Del resto, tornando al riferimento a Oklahoma City, nell'85 Oklahoma City indicò che c'era un vasto movimento come quello delle milizie, 15 anni dopo quelle espressioni militaresche dell'estrema destra sembrano aver perso consistenza, ma il vero volto della destra americana di questi ultimi anni è quello del Tea Party, cioè un movimento che annacquando un po' le posizioni delle milizie, però denuncia lo strapotere di Washington, delle notizie di questi giorni, fino al punto di pensare che l'intervento economico per evitare la bancarotta del paese e intervento statale, ad esempio di tassazione dei redditi più alti, equivalga a una forma di socialismo. In qualche modo, a 15 anni da Oklahoma City, le milizie pesano un po' di meno, ma le loro idee, sebbene un po' più soft, sono presenti in un movimento talmente di massa da influenzare addirittura il Partito Repubblicano, quindi la maggiore forza politica della destra statunitense. Il rischio quindi è che un'azione del genere contribuisca in realtà non a risvegliare le coscienze nei confronti della destra, delle idee della xenofobia, ma c'è il rischio che finisca con un paradosso e indirettamente a esacerbare le paure, i timori e magari consegnare un ulteriore risultato elettorale favorevole proprio a coloro che si candidano a rappresentare queste paure offrendo delle risposte come la xenofobia o la denuncia degli stranieri indicati come responsabili di tutti i mali. Ecco, credo che questo sia un po' il rischio di una vicenda come questa. Eh sì, fra l'altro poi appunto ricordavi il caso americano, la destra cristiana americana che insomma molto aveva in relazione con quel movimento delle milizie, è stata fondamentale nelle due vittorie elettorali di Bush Junior nel 2000 e nel 2004, e peraltro poi lo stesso attentatore di Oslo ha fatto in tempo ad essere è stato iscritto e militante del Partito del Progresso norvegese, che attualmente è la seconda forza nel Parlamento norvegese insomma per un paio d'anni, per cui ci sono tutta una serie di note abbastanza inquietanti, ecco, per i tempi a venire. Va bene, Guido, noi ti ringraziamo moltissimo come al solito per il tuo intervento e niente, una buona giornata e un buon proseguio di estate se sarai fra i fortunati che si fanno le vacanze.